dimmi quando devo andare. Sto già andando? Ma svegliati! Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. Dobbiamo cercare di arrivare per lasciarci dietro soltanto navi in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e l'attacco c'è! L'Italia prosegue! Matteo Vicino e Matteo Lodo, Matteo Castaldo, Domenico Montrone per uno splendido abbronzo qua sul lago di Lagoa per scrivere un'altra pagina storica. Ce la facciamo! Medaglia di bronzo! Medaglia di bronzo! È stata una bellissima gara. Era nelle nostre possibilità e siamo andati a prendercela. Castaldo! Io devo ringraziare tutti e spero che mia moglie non abbia partorito in questo momento, perché è stata una gara veramente incredibile, ragazzi. Ci vediamo dopo. Invece noi ci sentiamo adesso e speriamo che non abbia partorito la signora Castaldo. Intanto noi ci siamo presi la 13ª medaglia di questa Olimpiade, ce la siamo presi anche oggi, la medaglia dal canottaggio, l'avete sentito, dal 4 senza maschile Vicino Lodo Castaldo Montrone, seconda medaglia per il canottaggio in questa Olimpiade. Questa l'abbiamo presa ed è una medaglia comunque storica. Un'altra la stiamo forgiando, ma del metallo sbagliato, perché pochi minuti fa, lo avete sentito, l'Italia si è fatta battere dalla Francia nella semifinale del torneo a squadre del fioretto maschile, dove, diciamo la verità, speravamo di questa sera tardi, verso mezzanotte, di poter fare la finale per l'oro, e invece ci dovremo accontentare di quella per il bronzo contro Stati Uniti o Russia, contro gli Stati Uniti, che hanno appena perso 45-41 dalla Russia. Dunque faremo la finale per il bronzo con gli Stati Uniti in questa giornata che sta andando un po' così, a parte la medaglia che vi abbiamo raccontato. Dario Ricci, ciao! Ciao Giovanni! Direttamente da Rio de Janeiro, dove dobbiamo raccontare una giornata, una mezza giornata per te, che ha regalato anche qualche altra delusione. Ma sì, diciamo, vi parlo qua dal poligono di tiro dell'Olimpiade. Per svolta la finale della carabina sdraiati da 50 metri, impegnato Niccolò Campriani insieme a Marco De Nicolo. Bisogna dire che questa non è la specialità proprio di Campriani, che ha chiuso al 7º posto proprio alle spalle dello stesso De Nicolo. La formula ormai è nota, no? C'è questa sorta di playoff continuo una volta che vengono definiti gli 8 finalisti, quindi ad eliminazione Campriani ha chiuso appunto al 7º posto e poi ha dato appuntamento di fatto a quella che sarà la sua terza e ultima gara, la carabina in piedi dai 50 metri, in cui difende tra l'altro l'oro olimpico di Londra 2012, perché era in questa specialità che 4 anni fa Niccolò aveva conquistato appunto il titolo olimpico. Sì, in cui abbiamo speranza di aumentare questo nostro bottino. Prima di sentire Campriani, che è uno dei, insomma, è uno dei pilastri su cui si fonda la nostra spedizione a Rio de Janeiro, e che dopo la gara di oggi, e poi ve lo faccio sentire, ha detto, insomma, ha messo in dubbio che possa pensare di andare fino all'Olimpiade di Tokyo 2020. 800 24 0024, telefoni aperti fino alle 20, fra un po' arriva anche Leo Turrini, argomento libero. Oggi torniamo anche a parlare di Alex Watzer e avremo ospite Sandro Donati. Aspetto anche i vostri WhatsApp, 349 238 6666. Oggi approfondiamo un tema che in Italia sta facendo davvero discutere, ovvero la litigata tra Ingrid e Giovanna, le due tuffatrici brasiliane del sincro, compagne di stanza. Poi la sera prima della gara una delle due ha detto all'altra: guarda, per favore, stanotte dormi da un'altra parte che c'ho da fare, e le due si sono messe a litigare, hanno litigato anche sotto il trampolino prima di tuffarsi. Insomma, noi vi vogliamo chiedere, mandateci i vostri WhatsApp audio, ma per chi avete rovinato il rapporto con il vostro miglior amico, con la vostra migliore amica, se mai è successo, 349 238 6666. Con chi? Ma per cosa? Adesso vi facciamo sentire Campriani. Dopo la gara di oggi, i microfoni di Dario Ricci. Non so se questa sarà la mia ultima gara o meno, però lo devo a me stesso di provarci fino in fondo. Prima di ogni altra cosa lo devo proprio a me stesso, perché sono fatto 16 anni che faccio questo sport e ci sono stati tanti periodi difficili e anche tante gioie. Adesso sì, vorrei fare una 3P per me. Io so di non essere magari forte tanto quanto Londra sulla 3P, però ho anche tanta più esperienza e secondo me sì, qualcosa di buono si può fare. Insomma, Dario, personaggio particolare Campriani. Beh, assolutamente, diciamo, molto generoso con i giornalisti, perché ama raccontarsi, dialogare, e sicuramente oggi ha messo ancora una volta a nudo tutte quelle che sono le tensioni e l'emotività fortissima che riesce a governare per arrivare a questi risultati. Sicuramente, Giovanni, quello che dobbiamo evidenziare a merito ulteriore di Niccolò è che è un grandissimo agonista, perché pensate, nella specialità odierna, appunto nella 50 metri carabina sdraiata, lui negli ultimi 4 anni ha fatto solamente 3 finali e 2 sono quelle olimpiche, tanto per intendersi. Quindi sicuramente personaggio eccezionale e agonista straordinario, e con questo punto interrogativo. Ora, la sensazione, avendolo visto negli occhi, è che poi alla fine, smaltita la tensione di questa Olimpiade, ci siano ancora anni nella sua carriera, però sicuramente sono sforzi che lasciano il segno. Tra l'altro, perdonami se ritorno invece sulla cronaca spicciola, lasciano il segno anche le ragazze azzurre impegnate nella prova di skitta, perché sì, poi alle 15 locali, alle 20 italiane, qui ci sarà la finale dello skit femminile, entriamo anche qui con qualche speranza importante, qualche speranza di medaglia. Esattamente, perché Diana Bagosi e Chiara Cainero, che lo ricordiamo è stata campionessa a Pechino 2008, si sono qualificate entrambe appaiate al terzo posto con 70 punti, dietro alla cinese Wei a 73 e alla supercampionessa olimpica americana Road a 72, quindi alle 15 semifinale e poi a seguire finale per il bronzo e finale per l'oro. Anche qui non diciamo niente, ma insomma, beh, insomma, qualche speranza ce l'abbiamo. Grazie Dario. Grazie a voi. Grazie al nostro Dario Ricci da Rio. A proposito dei risultati di oggi, sta andando avanti nel tiro con l'arco anche il nostro Nespoli, che è qualificato ai quarti di finale, che sono oggi in serata all'ora di cena italiana. È iniziata l'atletica leggera ed è iniziata col botto, con un record del mondo, quello dei 10.000 femminili dell'etiope Almazza Yana, che ha battuto il precedente record per 14 secondi, 29, 17 e 45. Tra poco parte anche la 20 km di marcia, che doveva essere la gara di Alex Wasser, e poi ne parliamo. Poi c'è da raccontare anche la pallanuoto, con la prima sconfitta del Settebello, 10-7 contro la Croazia, una sconfitta che non preclude assolutamente il cammino della nostra nazionale. E poi stiamo aspettando Gregorio Paltrinieri, che oggi scende in acqua per le batterie dei 1500. 800 24 00 24, vi aspetto, tema libero. Ci sono già Luca da Bari, Andrea da Pisa, il traffico, torniamo con Leo Torrini. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. La Croazia batte l'Italia per 10-7 in questa quarta gara del Settebello qui al torneo olimpico di Rio. La nazionale campione olimpica e vice campione del mondo affianca l'Italia in classifica a quota 6 punti. Eccola qui la 45esima stoccata. La Francia è in finale, l'Italia disputerà la finale per il bronzo, dunque non potrà difendere il titolo olimpico conquistato 4 anni fa a Londra. Allora, intanto Capriani fa 10.8, Kamensky 10.7, recupera qualcosa, ma non è abbastanza per rimanere in corsa. Allora chiude in settima posizione Nicolò Capriani, ha dato il massimo, ma sì, qui 2.9.8 che sono colpi vicino al 10, insomma lo hanno costretto ad abbandonare. Comunque migliore, perché a Londra fu ottavo, adesso è settimo. 10.3 per Bubnovic, aspettiamo il colpo di Marco, 10.2, e allora finisce qui anche la gara. Peccato di per Marco. Marco De Nicolo, che chiude in sesta posizione. Giordano Benedetti è terzo, il primo azzurro passa al turno, 1.49.40, vediamo Sho Kawamoto se ha fatto quel centesimo in più o lo stesso tempo, 1.49.41. Missione compiuta per Giordano Benedetti, e non era esattamente facile. Ci chiedono anche cosa ha fatto Veronica Inglese nei 10.000 femminili, è arrivata a trentesima. Leuturini, ciao. Come andiamo? Bene, bene. Vedo che hai snocciolato un rosario di delusioni, aggiungiamone un'altra. Dov'è Carlo Genta? È già partito per il weekend lungo. Ma sai che i VIP fanno così. Che bella i VIP fanno... Restiamo noi, noi qui, io, te, ha raggiunto Dario Ricci. Genta ha raggiunto Berlusconi e Briatore là. Dove stanno? Sulla Costa Smeralda. Che stanno festeggiando, no? Arriva pure Pardo, arriva pure Pardo. Sicuro, manderanno sicuro un selfie. No? Senti, invece dove sono le medaglie italiane? Beh, abbiamo preso un bronzo del canottaggio, adesso non buttiamoci via, voglio dire, insomma, una medaglia alle Olimpiadi di qualunque metallo per un paese come il nostro è sempre qualcosa di importante. Penso che adesso ci dobbiamo concentrare sul mio nipotino Greg, che fra un paio d'ore, un po' di più, sarà in vasca finalmente. Questa sua estenuante attesa si conclude, ci sono le qualificazioni dei 1500 stile libero. C'è anche Detti, che fin qui ha scritto una delle pagine più belle dell'Italia di Rio, con quel bronzo nei 400 stile libero. Insomma, speriamo che questi due ragazzi, questi due fakiri delle piscine, possano regalarci una grande emozione. Sì, perché i maschietti del Fioretto sinceramente hanno deluso, perdendo come hanno perso con la Francia. Guarda, ti giro un messaggio che è appena arrivato. Ma voi non avete un minimo dubbio sul record del mondo dei 10.000 metri femminili? Ora, io non so se tu hai visto la corsa della Ayana. L'ho visto. Beh, allora, senti, adesso facciamo innanzitutto una considerazione storica. Io sono contento dell'impresa di questa etiope, perché il record precedente, lo dico per i più giovani, apparteneva a quella cinese strana Wung Xia, non so se vi ricordate, che correva a livelli insomma stratosferici, e asseriva che il suo segreto era che ingurgitava sangue di tartaruga. Ora, io sarei molto preoccupato se fossi nei tifosi dell'Inter e del Milan, perché vuol dire che i cinesi hanno una capacità fantasiosa. Cioè, tu pensa, una che corre, tirarono fuori che il segreto era il sangue di tartaruga. Non è che la tartaruga sia il simbolo della velocità come la gazzella, no. E poi però insomma nacque una disputa a proposito di doping, c'erano già queste storie quasi un quarto di secolo fa, queste cinesi sparirono tutte dai radar, ma il record di questa Wuxia eccetera ha retto fino ad oggi. Ha retto fino ad oggi, allora, oggi è stato distrutto, 14 secondi. Credo che nella storia dell'atletica leggera abbassare un primato di 14 secondi qualche cosa sia un record nel record. Poi se l'amico che ci ha scritto, ma sai, Leo, il problema è come fai a fidarti oggi, l'etiope, no? Va a benzina, va a diesel, va a GPL, va a metano o a sangue, ecco, io non... siamo sempre lì, noi non lo possiamo sapere. Guarda, io mi ricordo una cosa ai tempi dello scandalo di Ben Johnson, no? Di lì a poco c'è un altro grande evento sportivo, Gianpaolo Ormezzano, che se ti ascolto saluto, che è stato ed è ancora uno dei più grandi giornalisti italiani, non solo a livello sportivo, e che ha seguito il movimento olimpico per una vita, si mise per un certo periodo a inaugurare i suoi articoli sempre magnifici con la frase salvo doping. Lui all'inizio scriveva salvo doping, ma ti dico, eravamo nel fine anni 80. Ma Leo, ma sarà, sarà il caso di riprendere questa abitudine? Io lo faccio da 15 anni. Ho appena finito per Carlino, Nazione, Giovani Domani, il pezzo su Bolt che io adoro. E salvo doping. No, perché purtroppo abbiamo imparato nella storia dello sport a qualunque livello che è come diceva quello delle barzellette, no? Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ma c'è qualcuno per il quale metteresti la mano sul fuoco? Non so, Michael Phelps, che hai visto questa notte, che numeri? Ho visto. Beh, senti, io su Phelps sono positivo, non nel senso della provetta d'antidoping, perché Phelps l'ho visto ragazzino a Sydney nel 2000. Non mi ha mai dato l'impressione visiva, intendo dire, no? Di un'esplosione fisica innaturale. Cioè, se tu guardi le foto di Phelps attraverso i quadrienni, non ti viene il sospetto che si sia bombato con ormone della crescita, con steroidi e quello che è. In più, almeno questo spero lo si possa accettare, sono alcuni anni che i controlli, il passaporto biologico, i test sorpresa, addirittura l'abbiamo visto prima che si inaugurasse Rio, stanno togliendo medaglie di Pechino 2008 perché continuano ad analizzare con nuove tecnologie, esatto, con tutto, chi a lo controllare, sa, eccetera, insomma, anche questo è un deterrente. Ora io ripeto, su Phelps sono portato a credere che non su Phelps un paio di dita sul fuoco ce le metti, non di più. Penso che Phelps non sia un somaro diventato cavallo per aiuto della chimica, ecco. Mi sembra veramente un grandissimo atleta. Poi guarda, l'altra sera quando ha vinto i 200 misti, no? La sera della delusione di Federica, dovevi vedere lì in piscina, non è che i brasiliani abbiano per il nuoto, insomma, una particolare passione, no? Però, insomma, intorno alla figura di Phelps c'è un consenso unanime, plebiscitario, vorrei dire, anche chi non è americano. Poi adesso arriva Michael, arriva Bolt, arriva Usain Bolt, quell'altro. Quell'altro c'è il passaggio di testimone. Aspetta, intanto ti devo dire una cosa, Leo, che Michael Phelps, qui me lo dicono, ma tu forse conoscevi anche quello prima, Michael Phelps questa notte ha battuto il record di Leonida da Rodi, che per oltre 2000 anni ha tenuto stretto il primato dei 12 ore individuali. Phelps ha fatto 13. Io c'ero con Leonida Rodi, che era un carissimo amico, abbiamo studiato assieme. No, conosco questa storia, è bella, perché poi vedi, c'è questa suggestione, so bene che in Italia non solo, l'Olimpiade è sempre circondata, come dire, anche dalla perplessità, talvolta dal disappunto, c'è chi dice ma è un inutile spreco di soldi, la corruzione, la politica, tutte cose, per carità, che sono legittime. Invece? Invece oggi ho visto la batteria dei 100 metri femminili, dove c'era questa ragazza dell'Arabia Saudita che si chiama Kariman, no? Che il suo governo non voleva far partecipare ai giochi, perché in Arabia Saudita fare sport alle donne è vietato o comunque per niente incoraggiato. Per fortuna il CIO, tra tante cose deleterie, disdicevoli, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, io, tu e Carlo, il CIO però ha una norma nello statuto che qualunque nazione voglia iscriversi alle Olimpiadi e bene accetta, ma deve avere almeno una donna in gara. E quindi? Altrimenti ti fanno stare a casa. Si sono dovuti prendere carini. Allora, a Riyadh, quelli dei petrodollari hanno dovuto, un po' come nel film, andatelo a vedere, ho cercato su DVD, bellissimo, La bicicletta verde, non so chi l'abbia visto, che raccontava la storia di una ragazzina in Arabia Saudita che voleva andare in bicicletta, nonostante fosse proibitissimo, no? Ecco, questa Kariman, una cosa così. Ovviamente l'hanno obbligata, immagino, non lo so, forse l'aveva scelto lei, ma è un ordine, diciamo, ben preciso del suo governo, a correre i 100 metri vestita con una specie di mantello nero dalla punta dei piedi alla testa. Il che non aiuta nella 16 prestazione. Infatti ci ha messo 16 secondi. Però non è arrivata ultima nella sua batteria, è riuscita a battere la ragazzina di Kiribati che è un movimento, un comitato olimpico lì di quelle isole nel Pacifico, eccetera. Allora, ecco, un'Olimpiade è anche questa. La capacità, sì, di rendere non è solo uno spreco forse, di soldi per chi forse, lo ritiene tale. Questo, forse lentamente, impercettibilmente, questo mondo cambia in meglio. A volte l'Olimpiade ti dà questa sensazione, poi ti dimostra a volte anche tacere, un'illusione, poi ti fai tacere perché oggi sono veramente ma ci sono Luca e Andrea che aspettano dai tempi di Leonida, adesso la dico dopo, diamo spazio a Luca e Andrea. Luca, una cosa invece negativa da dire, ma tanto abbiamo tempo. Luca, ci vorrebbe un tutti convocati Olimpiadi per ogni grande evento sportivo. Mi piace molto questo modo di parlare di sport, liberando da esagerazioni e veleni, anche se poi gli argomenti sono sempre tutti molto delicati. Io credo che il vero scandalo del doping sia il fatto che gli atleti, o meglio, la Russia partecipi a queste Olimpiadi, che Donati e Schwarz vengano sottoposti al giudizio di gente sulla cui reputazione c'è più di un'ombra. E ieri diceva Turini, cominciamo dai bambini, dalle scuole, dove però lo sport, l'ora di educazione fisica spesso è sentita come un fastidio. La non cultura del doping, credo, si vinca con la cultura dello sport, e su questo credo in Italia, ma forse anche in altre nazioni, bisogna lavorare ancora molto. Sì, bisogna lavorare, bisogna investire, bisogna fare tantissime cose di cui ci si riempie sempre la bocca, poi dopo la verità è che ci si dimentica di farle. Andrea. Sì, grazie. Eccoci. Della convocazione olimpica. Ma a me ha fatto specie che nessuno del CONI, soprattutto della FIDAL, abbia detto una parola per evitare a Schwarzer l'umiliazione di andare a Rio per essere giudicato in questo modo. E quanto a Tamberi, spero che una volta guarito dall'infortunio la forza che mette nelle chiacchiere gli si indirizzi verso la caviglia buona. Sì, anche se Tamberi, io credo, insomma, ieri poi l'audio l'avete sentito, ve l'abbiamo fatto sentire, forse stava facendo anche un discorso in generale, non necessariamente puntato proprio su Alex Schwarzer, poi probabilmente visto i pregressi, se avesse fatto a meno di rispondere, forse sarebbe anche stato meglio, ma questo dal punto di vista comunicativo, poi fino a prova contraria l'opinione che chi viene beccato positivo al doping non debba più fare sport da professionista è un'opinione rispettabile. Magari non tutti la condividono, ma è certamente un'opinione che si può rispettare, si può discutere, ma si deve rispettare. Leo, stai lì. Sì. 800 24 00 24, c'è la borsa, torniamo subito. Boom, boom, boom, boom, boom. Perché lui di esperienza mi batteva, a lui bisognava tirargli la bomba. Colpo secco, colpo secco. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Io sono alquanto dubbioso su questo ragazzo, perché la cosa che mi domando è: ma si può essere più imbecilli o idioti di tornarsi a dopare dopo che sei già stato squalificato, quindi cappellato? Per me no. 800 24 00 24, aspetto i vostri WhatsApp, anche quelli vocali. Oggi il tema è, perché poi parleremo di questa incredibile storia di Ingrid e Giovanna, per chi avete rovinato il rapporto con la vostra migliore amica, con il vostro migliore amico, per cosa? Se ce lo volete raccontare. Guarda Leo, c'è chi scrive che ci chiede se metteremmo la mano sul fuoco per tutti gli atleti italiani, Claudio da Torino. Credo che la risposta sia no, sinceramente, perché sono atleti come tutti gli altri, e vale il discorso che abbiamo fatto prima, Leo, non perché sono italiani cambia qualcosa. No, volevo dire, mi sono piaciuti i due interventi telefonici di poco fa. Una cosa sulla Russia, no? Perché è stato detto da chi ci ha telefonato, ma insomma Schwarzer è stato trattato così e i russi invece possono gareggiare. Bisogna fare un distinguo anche lì. Io ho già detto come la penso su Schwarzer, quindi insomma non lo considero il conte di Montecristo dei nostri tempi moderni, e se avete letto il romanzo di Dumas capite il riferimento. Sapete che cos'è? I russi non è possibile immaginare che tutti gli atleti rossi fossero coinvolti, che tutti fossero colpevoli. C'è un brano della Bibbia, quello di Sodoma e Gomorra, no? Dove Abramo dice: Signore, ma se ce ne fossero solo 50 di onesti, non salveresti forse la città, non li salveresti, se fossero solo 30, se fossero solo 10. Quindi ecco, l'idea che si dovesse vietare a tutti gli atleti della Russia di venire ai giochi, se anche ce ne fosse stato solo uno in regola pulito, non si sarebbe forse commesso un'ingiustizia impedendogli di venire a gareggiare. Il problema è la confusione. Ecco, io la penso così. Ti sta ascoltando Sandro Donati, che intanto saluto. Donati, saluto, buonasera. Anch'io, caro professore, buonasera a tutti. Buonasera. Professore, io ho avuto modo di scriverlo, di dirlo, un grandissimo dispiacere. Per lei e per Alex, penso che quello che è accaduto ce lo immaginavamo, perché io e lei ne avevamo parlato proprio in questa trasmissione una settimana fa, quando lei era ancora in Italia, ma anche se ce l'aspettavamo è stato brutto lo stesso. Sì, poi è la ferocia che impressiona. Che effetto le farà oggi vedere, se vedrà, la 20 chilometri? Inizia tra un'oretta. Guardi, non la vedrò, perché penso ad Alex, alle prestazioni che faceva, e le avrebbe vinte tutte e due le gare, e allora non è molto piacevole vedere. Poi non è chiaro che quei ragazzi si impegneranno al massimo, meritano il massimo rispetto, però io devo pensare al valore che lui aveva, e il confronto diventa veramente doloroso. Io ho letto che andate avanti, c'è la denuncia alla procura, cercherete risposte da un tribunale ordinario. Mi chiedo, e poi spiego perché dopo, tanto abbiamo qualche minuto per, insomma, per fare una chiacchierata anche con Leo Turrini, cosa cercate, visto che il sogno, il progetto, l'idea di tornare, di dargli l'Olimpiade è naufragato? La cosa più importante di tutte, più importante delle gare, dei risultati, cioè assolutamente difendere la dignità di questo ragazzo, e quindi andare diciamo alla ricerca della verità in tutti i modi. Il primo passo sarà quello della richiesta del DNA, che avevamo già chiesto in sede di controanalisi, ma il laboratorio ci aveva rimandato alla IAF, cioè alla Federazione Internazionale. Però a quel punto ci siamo trovati in un gioco infernale di date, perché entro l'11 di luglio bisognava risolvere tutto, perché poi si chiudevano le iscrizioni. Poi dopo si è superato questo problema iscrivendolo sul B12, e nel frattempo è stata fissata la data del 18. Allora, tra l'11 e il 18 non facciamo in tempo a fare le analisi del DNA, altrimenti ci rimandavano al 18. Poi ne è stata fissata una il 27 luglio, alla quale la IAF si è sottratta all'ultimo momento. E poi siete arrivati a Rio. E poi ci hanno portato a Rio. Quindi una serie di rimandi tali per cui adesso chiediamo e ci organizzeremo adeguatamente per andare fino in fondo. No, ho chiesto questo, Leo, perché io oggi ho letto con piacere sul Corriere della Sera un'intervista da Alex Wasser. Prima domanda: come sta? Risposta che personalmente mi è piaciuta tantissimo. Come uno che deve chiudere un capitolo della sua vita in fretta per non farsi male. Non voglio scappare, ma devo cambiare e spero di essere capace. Mi è piaciuta e condivido con voi quest'idea. Perché comunque il timore, insomma, quella suggestione che poi la figura di Alex Wasser possa essere messa a confronto con quella di Pantani, che da una vicenda finì per autodistrursi, è qualcosa che rimane dentro. E l'idea che lui dica: io adesso devo chiudere pagina in fretta per non farmi male, a me è piaciuta. Io non so cosa pensate voi. Guarda, io credo una cosa, e sono sicuro che il professor Donati, che ama lo sport, sarà d'accordo con me. Io sono qui all'Olimpiade, che con tutte le sue contraddizioni è comunque un evento unico, ogni 4 anni la meglio gioventù del mondo, sperando che sia pulita, si ritrova nello stesso luogo e bla bla bla. Però al tempo stesso devo dire che la vita non è solo un'Olimpiade. Io penso che Schwarzer, l'ho detto, sia stato trattato come il conte di Monte Cristo e che il carissimo professor Donati sia il suo abate Faria, cioè che siano vittima di un qualche cosa di assurdo. Ma se dovessi parlare con Alex da uomo a uomo, anzi da padre a figlio, dato che c'è una differenza generazionale, gli farei cercherei meglio ancora di fargli capire che se da un lato i Donati ha ragione, devono fare di tutto per far emergere la verità e difendere la dignità, poi la vita è una cosa, come diceva anche il film meraviglioso, che non è solo l'Olimpiade, la marcia e tutto il resto. Tu hai evocato Marco Pantani, ecco, io ho sempre avuto la speranza che al di là della vicenda, dell'epilogo dolorosissimo, eccetera, Alex, grazie anche all'aiuto delle persone che è accanto, arrivasse a comprendere che ci sono anche altre cose nella vita. Professore. Sì, penso che Turini, Leo Turini ha ben focalizzato, e la mia idea è molto simile, ne ho parlato con lui e lui mi ha tranquillizzato, perché ho capito che lui focalizzava il suo rapporto sentimentale, è una relazione che diciamo si andrà a consolidare con la sua donna e tante cose che diciamo stanno dietro l'angolo. E quindi lui, d'altro canto, vi dico una cosa, me l'ha confermata anche 5 giorni fa prima del verdetto del TAS, lui mi ha detto: prof, io te lo dico in modo che tu ti puoi anche organizzare, se ci fanno gareggiare io faccio l'Olimpiade e abbandono. E lui comunque è rimasto scioccato dal comportamento della Federazione Internazionale, quindi non avrebbe mai voluto proseguire, quindi già era su quella strada, ecco, diciamo, adesso loro lo hanno aiutato ad andarci definitivamente. Sì, perché poi alle volte per un atleta, per un grande atleta, anche un atleta che chiude la carriera senza ombre, senza problemi, ma a maggior ragione dopo una vicenda così, è una sfida ancora più dura. Cercare una strada, disegnarsi un futuro, immaginiamo che lo sia a maggior ragione per Svazer. Voglio girare un paio di domande che sono arrivate. Una ce l'ha fatta ieri un amico che ha telefonato e chiedeva di girarla al professor Donati. Perché non ha reso pubblici subito i famosi audio delle telefonate, quelle prima delle gare? Allora, noi in massima trasparenza abbiamo detto: lo chiederemo al professor Donati. Ma non è assolutamente così. Io ne ho parlato e quasi immediatamente ho detto che avevo ricevuto delle telefonate, eccetera, eccetera, no? E in quella fase qualcuno ha detto: ma ci saranno queste telefonate? E io ho confermato che le telefonate c'erano e mi sembra che siano usciti gli audio. Dopodiché io le ho prodotte nelle sedi competenti, le ho prodotte davanti al magistrato e le ho fatte ascoltare anche diciamo di fronte a 2 procure della Repubblica. E dopodiché a quel punto sono uscite fuori, ma diciamo che sono stati rapidamente degli step successivi. Io non avevo nessuna intenzione di tenerle celate, anzi qualcuno aveva già fatto le ironie: ma ci saranno queste registrazioni? Le telefonate c'erano, le registrazioni c'erano, le abbiamo sentite. E poi l'altra, 349-238-6666, Alessandro, che scrive: chiedete al professor Donati se non ha mai avuto neanche un istante, un minimo dubbio che Alex lo abbia tradito. Io devo, che poi è la domanda che si fanno in tanti, senza girarci intorno. Sì. Allora, per me è stato un attimo sì, perché quando l'ho saputo dal presidente della FIDAL, effettivamente sono rimasto scioccato, poi era di sera tardi e ho pensato: ma che è successo? L'ho raggiunto e mi sono reso conto immediatamente che non stava né in cielo né in terra la cosa, e a quel punto, in quel momento, non avevamo le informazioni che poi sono arrivate dopo. Poi dopo, quando sono arrivate le informazioni, era tutto chiarissimo, e quindi assolutamente diciamo scomparso ogni minimo dubbio. L'ho avuto per un attimo, per un istante. Dopo mi sono reso conto, primo, che non si dopa uno che rinuncia a prendere gli antiasmatici, che di per sé farebbero un effetto anabolizzante. Allora uno che fa? Dismette dei farmaci che possono dare un effetto anabolizzante e poi va a prendere delle tracce di testosterone per ottenere la stessa cosa. Ridicolo. Secondo, il giorno 3 di dicembre, questo non si sa, ma ve lo dico adesso, 28 giorni prima di questo famigerato controllo, lui ha voluto che io scrivessi una dichiarazione nella quale lui si rendeva disponibile 24 ore su 24 dai controlli, l'ha sottoscritta e l'abbiamo trasmessa all'Agenzia Mondiale Antidoping, al direttore dell'Agenzia Mondiale Antidoping. È chiarissimo che uno... È una delle mille pieghe di questa storia che non torna. Leo, abbiamo veramente un minuto, ti lascio la chiusura col professor Donati. Beh, guarda, io ho seguito questa vicenda da vicino, è veramente molto forte la sensazione di essere a cospetto di qualche cosa di assurdo. Le ultime cose che ha detto il professore, io le conoscevo, la lettera, la VAD, la disponibilità a essere testato in qualunque momento. È tutto questo che rende il contesto veramente deprimente, perché davvero avete fatto bene a fare quella domanda, Donati, un attimo fa. Se Alex avesse di nascosto il professore fatto ricorso a sostanze proibite con tutto quello che ci siamo appena detti, allora sarebbe il criminale perfetto. Io invece ho il sospetto che il delitto perfetto lo abbiano eseguito altri. Sì. Grazie, professore. Guardate, sì. Se mi consentite vi dico quest'ultima cosa. Questo controllo dell'1 gennaio è stato pianificato il 15 di dicembre, 16 giorni prima, capite? 16 giorni prima, qui c'è una pianificazione ed è stato pianificato un giorno di festa in cui il laboratorio era chiuso. Allora, se uno pianifica 16 giorni prima o hai l'informazione precisa che quello si dopa con una microdose il primo dell'anno, come dire, festeggia il primo dell'anno, ed è un'ipotesi piuttosto ridicola, oppure sai che comunemente prende microdosi e allora lo vai a controllare il 26, il 27, il 28... Non vai a scegliere il primo giorno dell'anno che è festa, il laboratorio è chiuso e tu sai che disporrai dei campioni a tuo piacimento per più di 24 ore. E queste sono le domande. Io lo dico a chi ha scritto adesso, siete troppo indulgenti con chi si dopa, va squalificato a vita. Noi non siamo indulgenti con nessuno, ma su questa vicenda abbiamo deciso e lo stiamo facendo e continueremo a farlo di comunque tenere una luce accesa, anche se la sentenza insomma è quella che è. Tra un'oretta la 20 km parte senza Alex Wasser. Grazie professor Donati, arrivederci. Arrivederci professore. C'è il traffico, c'è Gabriele da Trento, allora traffico e poi Gabriele. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Atleti, a voi. Tutti convocati. Run, boy, run, run, boy, run. Tutti convocati alle Olimpiadi. Ne arrivano tanti, Leo, ancora di messaggi su Alex Wasser. 800 24 00 24. Gabriele da Trento, ho sbagliato, non è Fabrizio, è Gabriele. Gabriele. Ciao, buonasera, è un piacere parlare con voi. E poi parlare dopo Donati è difficilissimo, però sinceramente ieri mi sono riguardato l'arrivo di Pechino 2008 di Wasser e c'è stato un pizzico quasi di commozione, perché comunque ha pagato e adesso hanno fatto l'inverosimile, l'hanno ammassato completamente. È bruttissimo, soprattutto per vedere i giornali italiani, parliamo di uno in principalmente, dar comunque contro, essere stato contro dall'inizio. Io non credo, appoggiare. Però Gabriele, ti stai riferendo alla Gazzetta dello Sport. Certo. Non credo che la Gazzetta dello Sport abbia dato contro ad Alex Wasser. Ha fatto il suo lavoro quando ha avuto una notizia, Gabriele. L'avrebbe pubblicata anche Leo Turrini, Leo, no? Sì, però... No, ma il fatto che le notizie... No, aspetta Gabriele, poi ti lascio la parola. Io non so quale sia l'atteggiamento della Gazzetta dello Sport nei confronti di Alex, ma il dare la notizia quando si ha non può essere considerato, diciamo così, persecutorio, è tutto lì. Gabriele. Sì, però voi avete preso posizione, ha preso posizione Turrini, ha preso posizione Cassani ieri sera, che è stato chiarissimo, addirittura ha preso in ballo anche il caso Contador, che è un altro di quelli eclatanti, e vedere comunque un giornale, secondo me, non... minimamente accennare alla possibilità di un complotto. Questo non è nemmeno vero. Io non voglio adesso, poi per carità, non siamo la Gazzetta dello Sport, non tocca a noi rispondere, forse non è nemmeno questa la sede per discuterne, però insomma la Gazzetta dello Sport ha scritto tante cose in questi 10 giorni, magari si potrebbe discutere, qualcuno lo fa, ha scritto un messaggio su altri silenzi, quelli delle istituzioni sportive italiane, ad esempio a me interessa più quello piuttosto che il legittimo atteggiamento di un giornale, di una radio, di una televisione. decisione. Gabriele, io la penso così, poi noi quello che pensiamo l'abbiamo detto e evidentemente siamo anche però aperti ad ascoltare le opinioni di tutti gli altri, compresi quelli che ci ribadiscono che chi tradisce, chi si dopa anche solo una volta va radiato, ed è un punto di vista che è assolutamente legittimo e del quale si può discutere. Leo, ti ricordi il film Il matrimonio del mio migliore amico, quello con Julia Roberts e Cameron Diaz? Te lo ricordi? Sì, vagamente. Ma adesso fai uno sforzo di memoria, ti faccio sentire una scena particolare. Tu, chi diavolo credi di essere? Botte ragazze, sei venuta qui fingendo di essere mia amica. Tu l'hai baciato in casa dei miei genitori il giorno del mio matrimonio. Puttana, schifosa. Sta zitta. Oh, perché qui in Italia da 3 giorni non si parla d'altro della storia di Ingrid e Giovanna, che sono le due tuffatrici brasiliane che hanno litigato perché la sera prima della gara una delle due ha detto all'altra: guarda, per cortesia vai a dormire da un'altra parte che io c'ho da fare in stanza. Non so se le hai viste, le incontrate? Sì, no. Ho visto la storia, perché anche in Brasile naturalmente se ne parla. Sta facendo molto discutere. Però guarda, adesso devo dire una cosa, che è un po' la scoperta dell'acqua calda. Mi dispiace per Ingrid e per Giovanna, eccetera, nel senso che qualunque Olimpiade, il villaggio degli atleti, insomma, da sempre è un'occasione di incontri. Poi a volte sono incontri che durano una vita, perché io rammento la vicenda di quell'amore che nacque tra Connolly, che era un atleta americano, e la discobola cecoslovacca, allora c'era la Cecoslovacchia, Fitokova, negli anni 50, si sono sposati, lei ebbe il permesso dai comunisti, allora al governo, di poter espatriare. Cioè, non è che poi magari questa tuffatrice qui, con sto tizio che non ho capito bene chi sia, magari nasce una grande storia. Ci fa 4 figli. Aspetta, che saluto Nicola Marconi, che di villaggi olimpici ne ha vissuti. Ciao Nicola, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Non c'è niente di male, e diciamo la verità, non è neanche magari la prima volta che succede. Ma sicuramente non sarà né la prima né l'ultima. Sono cose che succedono anche al di fuori delle Olimpiadi, del villaggio olimpico. Adesso tutto sta nel vedere se, come dicono i giornali, sia successo il giorno prima della gara, come sia successo, perché giustamente se è successo il giorno prima della gara in quei modi non è proprio corretto. Sì, ha ragione quella che si è arrabbiata. Ha ragione quella che si è arrabbiata se fosse successo così. Però se invece i giornali, come sempre, un pochino tendono a enfatizzare, a montare, insomma, chissà bene come siano andate le cose. Sono però, vi posso dire, sicuro che fra le due non è che corresse proprio un buon sangue. Un po' le due ragazze sono sempre state un po' rivali, si sono trovate a fare questa gara insieme perché il Brasile, in quanto nazione ospitante, aveva diritto ad un posto in tutte le finali di tuffi sincronizzati. E quindi allora serviva una coppia. Esatto, si sono ritrovati a dover formare queste coppie. Il Brasile non aveva delle coppie in nessuna delle discipline. Infatti abbiamo visto che anche i ragazzi dal trampolino di 3 metri, ottavi sono partiti, ottavi sono rimasti, facendo anche dei tuffi discutibili. E le ragazze, che oltretutto non andavano già prima d'accordo, che è successo, magari l'altra ha fatto apposta a scatenare il putiferio così per giustificarsi. Ma senti, ma è vero che nei villaggi insomma poi c'è si vive così, noi abbiamo ci divertiamo tutti, ma non solo in Italia, a far la conta di quanti preservativi vengono distribuiti prima delle Olimpiadi per ogni atleta, c'è anche chi si fa pubblicità, però è un po' così o no? Allora, io ho fatto da atleta 3 Olimpiadi e poi la 4ª Olimpiade l'ho fatta da cronista. E devo dire che a me non è mai stato dato neanche un preservativo. Quindi sfatiamo questo mito. Io ho sempre letto preservativi. Io questa cosa non l'ho mai vista. Allora a chi li danno, Leo? Ai giornalisti? Questi 41 preservativi a testa? No, io sono fuori categoria perché risiedo a Villa Arzilla, a Downtown, a Rio, quindi non mettetevi in mezzo con questa storia. No, la storia dei condom distribuiti gratuitamente è nata a seguito della grande preoccupazione agli atleti, la grande preoccupazione generata dall'AIDS, no? Iniziarono, mi sembra, dall'Olimpiade di Los Angeles dell'84 a pubblicizzare questa cosa. Poi se Marconi, che saluto, non li ha mai ricevuti, mi fido della sua parola. Ma sicuramente. Poi non significa che non ci siano storie, assolutamente, perché è anche giusto così, siamo tutti ragazzi, siamo stati tutti, e il Villaggio Olimpico è un'atmosfera incredibile dove si incontrano tantissimi atleti, alle volte si incontrano i propri miti, i propri idoli, ci sono, al di là del prima gara... C'è un po' di euforia, perché è comunque una grande festa dello sport. Dentro il Villaggio Olimpico ci sono varie sedi dove tutte le sere vengono organizzate delle feste, comunque dei ritrovi, dei cambi. È normale che comunque succeda, scatti la scintilla. Poi sta sempre agli atleti, al buon senso, farla scattare prima, dopo l'evento e non prima. Anche a me è capitato che con una ragazza del nuoto sincronizzato si sia scattata qualcosa, però sempre a posteriori delle gare, mie e sue. Per evitare di compromettere una gara. Guarda, c'è un messaggio che è arrivato che è meraviglioso, lo lascio poi a Leo, che fra un po' salutiamo, ma dell'incontro galante della Ingrid, quell'incontro, sarà valutato dal TAS, va considerato doping o no? Leo, questo te lascio lì. C'è il rischio. Se il fortunato avesse fatto ricorso all'ormone della crescita o al testosterone, anzi... Se avesse usato il Viagra sarebbe positivo all'antidoping. Hai quindi capito. Genta oggi non c'è. Se fa l'antidoping con tutto il Viagra che prende è positivo. Questo gliela giriamo. No, abbiamo un minuto. Io volevo chiedere a Nicola Marconi se si è emozionato per l'argento della cagnotta e della Dalla Pè. Da morire, perché io, sia Tania che Francesca, le ho viste arrivare in piscina la prima volta, le ho viste far parte della nazionale giovanile. L'ho vista entrare in nazionale assoluta, che io ero il capitano, e loro erano due bambine, 18 anni, le ho viste vincere medaglie importanti e le ho viste soffrire a Londra. La loro carriera agonistica l'ho vissuta sempre in prima persona, anzi più di una volta ho condiviso gioie e dolori, e finalmente qui ce l'hanno fatta. Mi dispiace di non essere stato lì con loro, di averle abbracciate, però sono proprio, siamo scritti, siamo sentiti. Finalmente io lo ringraziate, perché comunque hanno fatto tanto per noi, hanno fatto. E chissà, tantissimo. Magari che adesso poi liberata Tania Cagnotto non ci regali anche un'altra emozione, perché non è finita. Io spero proprio di sì, spero anzi che la loro medaglia porti un effetto positivo a tutta la squadra. Questa sera ci sarà Tania insieme a Maria, la mia sorellina, che saranno le eliminatorie da 3 metri, e spero che abbia portato un'ondata di sicurezza, di grinta in più, perché quello è tanto per il movimento, sì, per tutti i ragazzi, la testa fa tutto, l'abbiamo visto anche in negativo purtroppo nelle ultime giornate. Grazie Nicola. Grazie a voi, a presto. Grazie Nicola Marconi, torniamo a disturbarti. Leo, ciao, ti lascio con l'altra brutta notizia di giornata, la di Pietro fuori per 7 centesimi dalla semifinale di 50 si libero donne. A domani. A domenica. Sto andando in piscina a vedere Gregorio e Gabriele, Paltrinieri e Detti, lì dovremo stare tranquilli, in finale ci dovrebbero arrivare. Domenica dalle 17 alle 19 ci siamo, ciao, tieniti libero. Ciao Leo, noi torniamo dopo il GR. Ciao. Convocati. Andiamo a vincere ancora! Sabato Mondo! Pronto? Ah Filippo, ma dove sei? Ma come dove sto? Con sto caldo sto al mare, oh! Ma quale mare, Filippo? Torna subito! Per miracolo quelli di Radio 24 ci hanno ingaggiato! Sono riuscito a vendergli un programma, si chiama I Fuori Posto. Ma ci pagano? Ma sì che ci pagano! Ma di che parla sto programma? Che ti devo dire? Parleremo di tutti quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro, nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e mo non ce l'hanno più, eppure di tutti quelli che hanno scelto invece di stare nel posto sbagliato. Dai, muoviti, Filì! Ok, mi hai convinto, vengo! I Fuori Posto, con Umberto Alezio e Filippo Roma, da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Tutti convocati alle Olimpiadi. Andatevene! Andate a giocare al pallone, che non fa neanche bene alla salute! Andate! Andate allo stadio voi a vedere le vostre partite di calcio, tanto non capite niente. L'Atletica è la regina degli sport. Ebbene sì, l'Atletica è la regina degli sport. 800 24 00 24, chiamate, prenotatevi per intervenire. Lo hanno già fatto Giovanni e Anna Maria. Un attimo di pazienza, vengo da voi. Atletica che ha debuttato oggi, sta debuttando in queste ore. Saluto Gianni Merlo della Gazzetta dello Sport da Rio. Ciao Gianni, buonasera. Gianni? Sì, eccomi. Eccoci, dicevamo debutta l'altra Olimpiade, quella nobile, ammesso che insomma si possa fare una classifica tra sport e discipline. Ma diciamo che è quella considerata la nobile, forse un po' decaduta ultimamente perché il moto della ginnastica l'hanno raggiunta. Allora, proviamo a perfezionare il collegamento, perché c'è qualche problema nel collegamento con Gianni Merlo, e lo richiamiamo da Rio de Janeiro. Giovanni da Padova. Sì, buonasera. Buonasera a te. Grazie per lo spazio. Sì, allora mi riallaccio appunto del discorso che adesso inizia l'Atletica. Penso che per l'Italia sarà un bagno di sangue, nel senso che la nostra posizione nella classifica scenderà parecchio. Però la mia riflessione è, noi siamo destinati a soffrire nella seconda settimana, sì, delle Olimpiadi. Penso che scenderemo insomma nella posizione che abbiamo, però la mia riflessione era ovviamente elogiare chi ha guadagnato l'oro, però la mia delusione è molto forte su quelli che sono stati gli argenti, che sono per me degli ori che sono mancati, e anche su alcuni movimenti mi viene in mente la scherma. Oggi ho visto la gara ed è stata una completa delusione, anche perché vedo dei movimenti dove ci sono dei personaggi che anziché far crescere il movimento stesso e far crescere altri atleti, vedo sempre gli stessi e mi viene in mente sai Giovanni, per andare alle Olimpiadi bisogna qualificarsi, però mi viene in mente la Pellegrini, nessuno ti regala niente, che ha fatto molto per quello che è il movimento del nuoto italiano. Però credo che nello stesso tempo abbia oscurato anche parecchie altre ragazze. Mi viene in mente la Filippi, che ha vinto un mondiale a Roma che poi è sparita nel nulla, e mi dico che come movimento magari una parte degli introiti della Pellegrini possono essere investiti sulle infrastrutture, che credo che in Italia manchi. Giovanni, io non credo che avere una grandissima campionessa sia limitante per chi c'è intorno. No, dovrebbe essere uno stimolo. È uno sport individuale, se qualcuno va più forte si qualifica al posto della Pellegrini, altrimenti alle Olimpiadi, ai mondiali ci va lei, però certo. Anzi, io credo che questi grandi personaggi siano da traino. Poi sulle medaglie d'argento, dopo le 19.30 parleremo con una medaglia d'argento che a un certo punto ha pensato di poter prendere l'oro, che è Elisa Di Francisca. Io resto del mio parere, qualunque medaglia alle Olimpiadi è una medaglia vinta, è una medaglia guadagnata, e per carità può esserci magari il rammarico per un tiro andato male, per una stoccata invertita, però rimane comunque un grandissimo risultato. Anna Maria. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, saluto gli ascoltatori. Io volevo intervenire un attimo per Schwarzer, perché mi è venuto naturale di pensare che, anche se sono stata delusa all'inizio dal fatto che abbia usato il doping, che si sia dopato, però ho dovuto cambiare la mia idea quando ho visto pochissimi atleti in realtà con questa voglia di riscatto che ha avuto Schwarzer, con la voglia di dimostrare che lui comunque è un grande atleta, e con l'umiltà di scusarsi in quel modo. Io apprezzo la vostra volontà di cercare la verità al di là di tutto, di qualsiasi cosa, cercare di capire se lui davvero è un grande atleta massacrato da chi poi va tutto dimostrato, chi sono quelli che lo massacrano e perché in questo modo. Per me lui, al di là di tutto, dimostra una volontà olimpica di riscatto, e per me è un buon esempio. Lui l'ha dimostrato. Quindi, poi se sia un buon esempio o un cattivo esempio io non lo so. Io so, ed è quello che cerchiamo di dire da settimane qui, che di sicuro non tutte le garanzie gli sono state date in questa vicenda, che è una vicenda che ha tanti lati oscuri. Se è un complotto andrà provato, e ci spiegava prima il professor Donati, ora c'è l'occasione perché ci sarà un'inchiesta ordinaria, e quindi ci sarà modo di andare a fondo ben più di quanto fa la giustizia sportiva. Di certo quello che abbiamo visto con Alex Wazer, costretto ad andare a Rio per difendersi in un processo con verdetto alla vigilia della gara, è qualcosa che personalmente a me non è piaciuto. Fra un po' c'è Gregorio Paltrinieri. Allora andiamo a vedere cosa dicono le stelle. Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Marco Pesatori. Buonasera. Il nostro oroscopo vivente, sì, di queste Olimpiadi. Allora, qualcuno ha scritto ieri, io te lo dico, non ti arrabbiare, da quando chiamate l'uomo delle stelle abbiamo smesso di prendere medaglie. Abbiamo smesso di prendere? Medaglie. Oh no, beh, questa è una cattiveria probabilmente di qualche filosofo positivista, di qualche scienziato, e guardatevi dagli scienziati, perché non sempre gli scienziati sono puri e perfetti, come dimostra il caso Schwarzer. Io sarei molto diffidente su certi tipi di scienziati. Il caso Schwarzer, avete parlato adesso, ma mi sembra proprio Capricorno, Schwarzer, proprio il segno della fatica, cioè, mi sembra evidentissimo che gli indizi non sono pochi, sono tantissimi. Capricorno è il segno della fatica, della sofferenza. Della fatica, ma nel caso del povero Schwarzer, e sottolineo povero perché l'hanno proprio, mi ricorda moltissimo il caso Pantani, cioè la crocefissione pubblica. Sì, noi cerchiamo di allontanarla, questa suggestione, ne abbiamo parlato anche prima con il professor Donati, perché insomma c'era Donati, che vada diversamente. Grande. Non diamo retta a questi che attaccano l'astrologia, perché non sanno cos'è. In Italia purtroppo culturalmente siamo, penso, al 149esimo posto, per cui l'astrologia, dico solo una cosa, mentre tutte le squadre dell'NBA hanno il contatto con l'astrologo, no? O pensate a personaggi come Lidon, come Berzot, che rispettavano e capivano, perché la cultura aiuta il risultato. Ecco, stiamo attenti a parte che non è vero, perché mi avete chiamato proprio nel giorno in cui avevamo preso una barcata di medaglie. Ma sì, poi ci sono anche i criticoni. Oh, di che segno è Gregorio Paltrinieri, che è il nostro uomo che ci giochiamo? Secondo voi di che segno può essere uno che sta le ore ad allenarsi? Tac, tac, destro-sinistro, destro-sinistro, destro-sinistro, sempre uguale, per ore, metodico, no? Come un martello. È una vergine, la vergine è il segno del lavoro, e quindi il fondista deve amare il suo lavoro sui tempi lunghi con grande precisione. Quindi Paltrinieri è proprio una vergine, e quindi questa sera ti tifiamo per Paltrinieri e ci becchiamo una medaglia, ma di quelle belle. Sì, la medaglia in realtà dobbiamo aspettare un paio di giorni, perché i 1500 sono sport di fatica, e quindi tra batterie e semifinali. Però già stasera si vede, no? Però già stasera, insomma, la classe, ecco. Poi la Vergine in genere non tradisce, questo è un segno che non tradisce, a differenza di altri caratteri. Pensate all'Acquario, no? L'Acquario vince quando nessuno se lo aspetta e perde quando è il favorito. Tipico caso dell'Acquario Gianni Bugno, ve lo ricordate Gianni Bugno? Come no? Cioè, quando tutti lo davano per perso, vince, campione del mondo. Quando poi lo aspettavano, un altro Acquario era Roberto Baggio. Invece in genere la Vergine, perché è un carattere metodico, preciso, lavoratore, e quindi questo piacere dell'allenarsi non porta mai a un tradimento sportivo. Non è un carattere emotivo, ma che controlla rigidamente, rigorosamente le emozioni. Insomma, possiamo fidarci questa sera. Grazie Marco. E allora grazie, quando volete un parere su Gabigol chiamatemi, perché ero a consulto con Gabigol e mi diceva: ma è vero che sarò un bluff? È vero? Sono spaventato. Io gli ho detto: Gabigol, stai tranquillo, Poi ieri Altafini a questi microfoni ha detto che sarà il futuro del Brasile, quindi noi ci fidiamo. Grazie Marco. Ciao, un abbraccio. Grazie Marco Pesatori. Gianni Merlo, vediamo se riusciamo a stabilire il contatto. Gianni, buonasera. È caduto ancora. Insomma, queste linee dal Brasile. Enrico da Monza. Sì, buonasera. Buonasera a te. Buonasera, grazie della convocazione. A proposito di doping, non di quello chimico o fisiologico di cui si è parlato e si sta ancora parlando moltissimo, ma volevo lanciare una provocazione. Ieri sera ho visto il concorso di ginnastica femminile. Tra le atlete c'erano due cinesi che, vedendole sulla televisione, dimostravano sì e no 12 anni. Ora, due domande. La prima: esiste un limite di età per l'ammissione ai giochi olimpici? La seconda: se esiste, non sarebbe il caso di portarlo, che so io, a 16, 17, 18 anni? Credo che il limite sia 15 anni, ma adesso approfondiamo. Perfetto. Enrico, e vediamo di darti la risposta. Perfetto, la provocazione è questa, ma ci rendiamo conto che queste ragazzine, di queste bambine, vengono prelevate dalle famiglie all'età di 4, 5, 6 anni, chiuse in una scuola, in una palestra, e fatte crescere a esercizi, allenamenti e pane e acqua per la dieta, per farle diventare poi delle campionesse o comunque delle atlete a livello mondiale. Sì, ma sull'eticità di questa cosa. No, questo non è doping. Queste sono scelte e sono scelte che non sono condivisibili e che sono pratiche che andrebbero cambiate, ma non è doping. E spesso sono anche questioni culturali spesso sono anche metodi attraverso cui intere famiglie possono riscattarsi in altri paesi. Il tema è stato discusso soprattutto per la ginnastica. Dammi qualche minuto e vediamo anche di risponderti sui limiti d'età, cioè se sono stati inseriti e quali sono. Ciro da Napoli. Ciro, buonasera e grazie. Buonasera per la comprensione. Ascolta, io sono un assiduo frequentatore di social media e ho visto un accanimento contro la Federica Pellegrini, un accanimento inutile e stupido, perché io vorrei dire chi siamo noi a poter giudicare un atleta che suda, lotta per 4 anni per fare una gara e poi magari la può anche fallire, perché ci può stare, non credo che questi grandi atleti siano felicissimi. Io ho avuto la fortuna di avere un fratello che ha partecipato 20 anni fa all'Olimpiade d'Atlanta e so i sacrifici enormi che fanno questi atleti, e quindi praticamente io dico, parla la storia per questi atleti e basta solo questo. Io sono molto rammaricato da queste polemiche contro questi atleti, ecco. Sì, poi soprattutto nei confronti della Pellegrini assolutamente ingenerose, perché stiamo parlando di un monumento, ma in generale nei confronti di chiunque si metta in gioco, vada e cerchi il suo limite. Hai perfettamente ragione. Giorgio, da Ferrara. Buonasera, volevo buonasera a te dire la mia sul discorso di Schwarzer. Ascolti, io con più ascolto e con più mi faccio la mia idea è che secondo me hanno colpito Schwarzer per far fuori il professor Donati. E questo qui ne sono più che convinto, perché è una vita che fa la lotta al doping, ha voluto dimostrare con i suoi studi e con le sue conoscenze di allenamenti che uno può evitare di fare ricorso a quelle pratiche illecite, e il povero Schwarzer è stato il capo espiatorio per far fuori tutti e due in un colpo solo. È una delle tesi, è uno dei pensieri, è uno dei retropensieri che viene seguendo il filo di quella vicenda. Perché mi sembra strano che una di sicuro il professor Donati difficilmente avrebbe, anzi, non avrebbe mai avallato nessun tipo di pratica e ci ha messo la faccia, e di sicuro oggi c'è qualcuno contento di quello che è successo a chi veniva seguito dal professor Donati, questo è sicuro. Grazie Giorgio. Abbiamo la borsa, ci dicono che le cinesi della ginnastica sono adulte, più vecchie di quelle portate dall'Italia, quella che sembra dodicenne in realtà ha 20 anni e in tutti i paesi si inizia da bambini. Dave, grazie Dave. Borsa. Ecco, vanno alla ricerca della verità, va. Non strano che quella dei tribunali non è mai la verità. Cazzo, Berlusconi non ha mai fatto niente. Nessuno è colpevole di niente. Cazzo, li beccano tutti, ma nessuno è colpevole di niente. Com'è sta storia? Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati alle Olimpiadi. Parte Elisa Di Francisca, niente da fare, non va, non ce l'ha fatta, non va, per una stoccata, dunque si impone Inna Deriglazova 12-11 su Elisa Di Francisca ed è la nuova campionessa olimpica. Me la sono levata dai coglioni sta gara, cazzo, non portavo più. Bip. A proposito di medaglie d'argento che magari lasciano un pizzico di delusione, ma ripeto, ogni medaglia presa alle Olimpiadi è una medaglia vinta. Elisa Di Francisco, ciao, buonasera. Ciao, ciao a tutti quanti. Vedo che non hai recuperato la voce. No, no, ho urlato tanto. Avevo letto questa cosa, che insomma i festeggiamenti ti erano costati la voce. Metabolizzato sì, l'argento, le feste... No, non si metabolizza niente, è tutto da fare, tutto da festeggiare. Sono tornata oggi e i festeggiamenti devono ancora iniziare. Come ti hanno accolto? Beh, mi hanno accolto in palestra, i vari presidenti del club schermagliesi, i genitori dei bambini che si allenano con me, i bambini stessi, i ragazzini, anche quelli che hanno tirato con me prima di andare, di partire per le Olimpiadi. È stata una bella festa. Cioè la prima accoglienza, la prima festa che è la prima di una lunga serie. Tu poi hai già esperienza, sì, sai cosa succede. È di giorno, no? Una festa tranquilla con genitori, bambini. Senti, ma quanto va avanti la festa dopo una medaglia alle Olimpiadi? Tanto, almeno una settimana, come quei matrimoni, no, che durano giorni e giorni. Tu sei d'accordo che una medaglia di qualsiasi colore è sempre una medaglia vinta? Certo, assolutamente sì. Una medaglia è una medaglia. Dietro una medaglia c'è tanto lavoro, tanto sacrificio, c'è tanta fatica nel tenere insieme la paura, no? La paura di affrontare una gara come l'Olimpiadi, perché comunque entrano in gioco tante emozioni, e insieme alla paura c'è il coraggio invece di voler fare una bella gara, di andare avanti, no? Di tirare sempre la stoccata, quella che ti permette di vincere l'assalto, perché te lo meriti, perché hai lavorato, perché sei forte, per tanti motivi. La testa fa tutto, è vero che la scherma, lo sport in generale è sempre qualcosa di tecnica, di fisico, di potenza, di resistenza, a seconda di quella che è la disciplina, ma poi c'è la testa. La testa è importante nella scherma, ma nella vita in generale è quella che comanda un po' tutto quanto, la testa e il cuore. È un po' quella che, ecco, quando hai paura, no? Quando vai in panne, per esempio, vai a fare banco, ma oddio, non mi ricordo il codice, tu ti blocchi, metti la mano lì, la mano va, no? Volendo. E invece alle volte stai fermo lì. Ma tu ci hai ripensato a quel blackout, le sette stoccate che hai preso in finale? Allora, io devo rivedere la gara, ho bisogno di rivedere la gara, però sì, ho pensato che ho iniziato l'assalto 3-0 per me, e da lì un macello, nel senso che da lì è stato tutto un prendere stoccate, poi dopo un metterle, e poi alla fine un tempo che era passato, no? Poi ci sono equilibri sottili. Ricordo lo 0-0-0. Tempo è finito. Sì. Capita. Oh, su quei due secondi siamo morti tutti, quelli dei due secondi, credo è 40 centesimi il tempo che avevi a disposizione per provare a rimettere in piedi con un'ultima stoccata l'assalto della finale. Dicevo, gli equilibri sono davvero sottili, l'abbiamo visto anche oggi nei maschi, sono partiti contro la Francia che sembravano comandare e poi si è spenta la luce e in finale sono andati i francesi. Tu pensi di arrivare a Tokyo? Allora, adesso penso di aver chiuso una grande Olimpiade, di aver appena finito di partecipare a una grande Olimpiade, di essermi battuta con tutta me stessa fino all'ultimo secondo proprio per conquistare una medaglia, per far vedere a me stessa quanto valevo. Da oggi inizia un momento di riposo, un momento di vacanza, un momento di tranquillità. Non riesco a programmare le cose, nel senso che se con il momento in cui mi rimetterò la divisa, fra poco perché ci saranno i camp con gli esi dal 22 al 28 agosto, però nel momento in cui me la rimetterò per il primo allenamento, la prima gara, e sentirò che, mamma mia, che ti è tornata la voglia, no? Sì, oppure il contrario. Oppure che ho lo stimolo, che ho la motivazione, in quel momento io sentirò se continuare o se smettere. Che poi hai parlato di lungo periodo di riposo e in realtà il prossimo impegno è dietro l'angolo, è la vita d'atleta. Sì, no, pensavo ti riferissi alla festa. Ah, sì, no. No, le tartine, i panini, i piattini. Ti lasciamo alla festa, grazie Elisa. Grazie, grazie a voi. Grazie Elisa di Francesca, ciao. Meravigliosa, anche la voce che manca. 800 24 00 24, stiamo aspettando Gregorio Paltrinieri, però si fa attendere. Vincenzo. Sì, buonasera. Eccoci. Io volevo intervenire riguardo alla secondo me pessima storia di Schwarzer e del professor Donati, che soprattutto se io almeno vedo tanti di quei misteri, di quei creano tanti di quei dubbi, e concordo su chi dice che probabilmente la vittima potrebbe essere il professor Donati, perché è sempre stato un nemico acerrimo delle pratiche di doping, l'ha dimostrato in 30 anni di vita professionale e di vita nell'atletica. E poi oltretutto c'è da dire che la sostanza che è stata trovata, io ho praticato sport a livello agonistico da giovane, non ad altissimo livello ma a discreto livello, e la sostanza che è stata trovata nelle urine di Schwarzer è una sostanza che è il testosterone, quindi un anabolizzante che per l'attività, per la disciplina della marcia, sì, di resistenza, è qualcosa di deletereo, neanche di quindi, perché aumenta la massa muscolare, aumenta il peso, che quindi che anzi è qualcosa di controproducente. Sì, questa è un'altra delle argomentazioni portate per cercare insomma di smontare quell'accusa, cioè il fatto che quella sostanza lì in realtà a Schwarzer dal punto di vista sportivo non avrebbe fatto bene, ma anzi paradossalmente avrebbe fatto male, questo che tu ci stai confermando. Avrebbe creato un danno, assolutamente, visto anche che lì ormai il livello è talmente alto, lo sforzo fisico, i ritmi di allenamento e di gara sono talmente alti che anche qualche decina di grammi o qualche etto in più di peso potrebbe pregiudicare la prestazione. Grazie per Vincenzo. Per cui sinceramente io propendo di più verso l'ipotesi che c'è qualcosa di poco chiaro e soprattutto contro il professor Donati. Grazie Vincenzo, grazie anche a Franco da Mantova che scrive onore alla campionessa che torna dai bambini della palestra, ma io dico onore anche a Elisa Di Francesca che l'avete sentita, faceva fatica a parlare, e però è bello così, una medaglia d'argento si festeggia anche perdendo la voce per giorni e giorni e giorni, altro che delusione e oro perso. Poi gli atleti sanno benissimo dove potevano vincere e che cosa hanno sbagliato, e magari si rivedrà quell'ultima stoccata, quella serie di stoccate prese, se le rivedrà per mesi e per anni, però una medaglia, qualunque colore sia, è una medaglia vinta. Duilio, dalla provincia di Chieti. Duilio? Pronto? Eccoci. Eccoci qua. Buonasera innanzitutto. Buonasera a te. Bene, allora questa sera, questa notte, insomma, sarà una notte particolare per gli amanti del beach volley, che insomma ci sarà il derby, sì, tra le due coppie italiane, quindi Nicolai Lupo contro Carambola Ranghieri, insomma, peccato, un po' peccato, perché insomma una delle coppie che lascerà le Olimpiadi. Però insomma porteremo anche qualcuno avanti, qualcuno più, avanti, vicino al podio, Duilio. Sì, sì, sicuramente, cioè, entrare nei quarti di finale sicuramente è un obiettivo importante, una disciplina molto televisiva, molto spettacolare, che sta riscuotendo grande successo a Rio. E poi abbiamo scoperto questa battuta che sì, sta facendo impazzire tutti, la Skyfall, Skyball. Sì, sì, sì, sì, questa battuta di Carambola, questo funambolico italo-uruguaiano che insomma così si è fatto conoscere a chi non, chiaramente non segue abitualmente il beach. Ma tu hai mai provato a fare la battuta così? Tu giochi, pratichi? No, no, io non pratico il beach volley, però diciamo mi piace da appassionato e anche da giornalista, insomma, seguo le vicende. Poi sono corregionale di Nicolai, per cui insomma chiaramente un po' sono di parte. Quindi però, stasera sai per chi fare il tifo, anzi questa notte credo alle ore 4, se non sbaglio. Questa notte alle 4, certo la coppia romano-abruzzese, ortonese, ha al suo gruppone un match in più, quindi diciamo è dovuto andare insomma ai ripescaggi per qualificarsi, però insomma poi non si può mai dire, non si può mai dire. Comunque alle 4 di mattina il derby del beach volley maschile tutto italiano, Ranghieri Carambola contro Nicolai Lupo. Hai fatto benissimo a ricordarlo, così come questa notte combatte il pugile italiano donna per la prima volta alle Olimpiadi. Anche questa è comunque una ricorrenza che vogliamo ricordare. Mi fate sentire i rumori della H delle isole Figi. Perché le Fiji hanno vinto l'oro nel rugby a 7 maschile. Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Che meravigliosa storia. Oh, intanto, visto che siamo a sole 24 ore, io ti do due numeri. Il primo è che in questo momento le isole Fiji sono in testa alla classifica di medaglie d'oro in rapporto alla popolazione. Una medaglia per 892.145 abitanti. Tanto per dirti, l'Italia che ha preso 3 medaglie d'oro fin qui ne ha una ogni 20.267.000, invece le Figi sono prime. Ci hanno lasciato indietro. Ci hanno lasciato indietro, ma hanno lasciato indietro tutti, anche tutti gli quanti. Stati Uniti, 16 medaglie d'oro, una ogni 20.088.000 abitanti. E poi le isole Figi sono anche in testa, questa particolare classifica che mi hanno girato, delle medaglie d'oro per PIL. Però detto questo, io ho letto da qualche parte che questa medaglia d'oro è la medaglia d'oro del bambino contro il gigante. Beh, sì, diciamo da un punto di vista demografico sì, che poi le isole Fiji nel rugby a 15 siano una realtà da primi 10-12 posti al mondo è una verità. Che nel rugby a 7 siano i più fantasiosi, i più belli da vedere, quelli che riescono a fare i giochi di prestigio, che mettono assieme l'organizzazione di gioco, la fantasia, il fisico, questo si sapeva. Quindi quando si è saputo che il rugby a 7 sarebbe arrivato alle Olimpiadi, le isole Fiji tutti hanno pensato: guarda che stavolta riusciamo a vincere una medaglia olimpica, perché loro non ne avevano mai vinto una in nessuna specialità, e la prima che hanno vinto è una medaglia d'oro, è una tifoseria ancora più festosa e multicolore dell'abituale tifoseria che segue i match internazionali del rugby. Sono innamorati di questo sport in un paese di 900.000 abitanti, un arcipelago anche molto povero. Quando hai parlato del PIL, effettivamente purtroppo per loro questo rapporto PIL-medaglie d'oro credo che rimarrà imbattuto. Ieri, l'altro ieri, nelle partite che hanno giocato nel torneo a 7, sicuramente hanno iniziato molto contratti, hanno iniziato addirittura passando in svantaggio con il Brasile, che poi è arrivato ultimo. Hanno vinto delle partite di misura, poi probabilmente si sono liberati di un peso. In semifinale hanno battuto bene il Giappone 20-5 e in finale hanno veramente dilagato, hanno stravinto contro la Gran Bretagna, con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna che aveva vinto tutte le partite. Sì, alle Fiji, alle Fiji si vive per il rugby, io ci sono stato, lo posso testimoniare, come in Australia, del resto come in Nuova Zelanda, ma ancora di più in Nuova Zelanda. E poi non capita tutti i giorni che le convocazioni della nazionale per le Olimpiadi vengano annunciate direttamente dal primo ministro, come risulta sia stato nelle isole Fiji. Interrotto qualsiasi tipo di trasmissione. Ti vorrei raccontare due cose. Una, sì, che è molto carina, che fa sì che molti abbiano sempre detto i figliani però non hanno un gioco particolarmente tattico, non hanno una mischia particolarmente forte, anche se sono degli omoni eccetera. E molti si sono chiesti, ma voi siete capaci a passare la palla però ad esempio non la calciate mai, come mai? E una spiegazione di un giocatore da un bel po' di anni fa, figiano, era, ma vedi, noi normalmente cominciamo a giocare sulla spiaggia a piedi nudi e il pallone è una noce di cocco, quindi questo dava già quindi, cioè, una buona idea del perché. È questione di autotutela fisica. Esatto, l'altra cosa, a parte che dobbiamo ricordare questo dominio oceanico, perché tra le ragazze invece ha vinto l'Australia, dobbiamo ricordare che il Giappone, così come l'anno scorso ai mondiali, alla prima partita causò uno shock battendo il Sudafrica, adesso alle Olimpiadi alla prima partita ha causato uno shock battendo la Nuova Zelanda. Volevo segnalare, abbiamo parlato appunto del nostro marchio, del nostro brand del Sole 24 Ore, una rubrica che si chiama Sogni Olimpici, sulla quale l'altro ieri Luigi Sampietro, che è un serio autorevolissimo critico letterario del Sole 24 Ore, ha dichiarato il suo amore senile verso il rugby a 7. Lo ha scoperto a 7, che è una delle scoperte di queste Olimpiadi. Per noi, l'ha scoperto adesso, ha detto, questo sport che si gioca in un campo intero con soli 7 giocatori, tempi brevi, poche interruzioni, molto spettacolare. Lui è apparso colpito anche dalla grazia, nonostante si tratti di uno sport di contatto, delle giocatrici, alcune delle quali veramente carine, poi diranno che siamo politicamente scorretti perché parliamo anche delle qualità estetiche delle atlete, e questo è bello nel senso che magari tante altre persone possono avere scoperto questo sport, che sicuramente può anche diventare un'alternativa in tante nazioni dove mettere su delle squadre di rugby a 15. Sì, è più complicato. Grazie, certo. Giacomo. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Se è vero come è vero che Alex ha fatto 22 controlli nel 2016, cioè non capisco come mai l'esito di questo controllo del 1 gennaio fantomatico sia arrivato a giugno. Se è arrivato a giugno, cosa vuol dire questo? Che degli altri 10, 15, 20 devono ancora arrivare gli esiti? È questo? Non credo, anzi, anche l'ultimo, quello fatto a giugno, a sorpresa è risultato negativo. Quindi qui restiamo, però noi siamo qui e raccontiamo. Giancarlo. Ciao. Ciao, buonasera. Io, guarda, volevo intervenire a proposito rispetto a Schwarz, brevemente, ho cercato di farmi un'idea, è un aiuto grosso, me l'ha dato vedere il video di Donati sul sito di Repubblica, dove appunto si mette insieme un po' di cose, sì, partendo da una discussione che c'è stata dopo questo, quindi un forum, è intervenuto un ex atleta che io vi consiglio di contattare, che lei magari conosce benissimo, è comunque un ex maratoneta svizzero, e lui è un po' vede le cose da un'altra parte, e ci sono molte cose, vi dico la verità, anche la cosa che lei sta dicendo, che ha appena mandato in onda a giugno è uscito, però bisogna dare le informazioni a 360 gradi, e io ho cercato di informarmi, perché poi passa, io sono molto legato a Pantani, ma non c'entrano niente, sono due cose secondo me completamente diverse, due personaggi completa il pensiero sulla questione dei controlli, che con la mappatura genetica non si fa un controllo Allora, se si fanno delle microiniezioni di testosterone che doppa, è inutile, quello che ha detto quel signore prima, una cavolata, il testosterone doppa o di EPO, è la cosa più complicata da prendere. Sì, come anche, fanno a anche prenderlo? Se gli sportivi di resistenza solitamente si dopano con l'EPO. Sì, ma se lei chiede a un... Non, guardi, Donati, lo poteva chiedere a Donati. Donati gliel'avrebbe detto subito, no? Col testosterone, invece non l'ha detto questa cosa. Ma arrivo al punto. Le microiniezioni si possono trovare solamente verificando come è andata in parecchi mesi una serie di controlli. Ora, che il falso lo controllassero ogni 5 minuti, ma è più che giusto, perché se fossimo in un altro mondo ci potrebbe anche essere la regola, ti prendo una volta e non corri più, e forse io delle volte ci penso, dico è estrema però, ma questo, diamo l'informazione giusta, la variazione che hanno trovato, poi il fatto che dal primo gennaio i controlli li fanno anche il sabato, la domenica, sì. Vi consiglio veramente di contattare questo, tra l'altro sì, ho scritto un articolo, per carità, questo. Però finisci il ragionamento, perché se no finisce la trasmissione. Viene detto è negativo, e così loro riescono a vedere le variazioni solamente prendendo quello che è successo in un determinato periodo di tempo. E succede così, e quindi a lui hanno trovato un'anomalia, perché rispetto a tutti gli altri controlli del testosterone sono andati a beccarlo. Ora è un pazzo, è un tossico di doping, sta mentendo a tutti, non è vero, c'è un complotto enorme, io non metterei tante cose. Allora, hanno Giancarlo, trovato un... Io sostengo solo questo, Giancarlo, no, aspetta, io sostengo solo questo, il complotto va provato e questo è evidente. È altrettanto evidente che ci sono una serie di anomalie su cui è giusto che prima o poi qualcuno ci dia delle risposte. Questo è, ma noi ospitiamo. Abbia veramente dei problemi. Si faceva Giancarlo, forse non ci siamo capiti. Noi non escludiamo nulla, noi facciamo domande, chiediamo e continueremo a seguire questa vicenda. Abbiamo detto che sposare in maniera critica l'idea del complotto, almeno io personalmente non lo faccio. Dire però che esistono dei punti oscuri, delle anomalie, delle tempistiche che fanno discutere, questo assolutamente sì. Grazie Giancarlo. Questa notte abbiamo visto un fenomeno in piscina. Enorme quello che sta facendo Michael Phelps, 2,5 metri, quasi 3 di vantaggio, è la storia, è la leggenda, è l'infinito, è Michael Phelps, 1,54,66, la quarta volta che vince i 200 misti all'Olimpiade da Atene 2004 a Rio 2016. Fabio Scozzoli, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Siamo qui tutti ad aspettare Paltrinieri, che è il nostro alfiere. Intanto questa notte davvero Michael Phelps sta aggiornando il libro della leggenda, dei record in continuazione. Io non so se esiste qualche aggettivo nuovo. Ma nel mondo del nuoto, no. Nel mondo dei fenomeni, più che altro, non esiste nuoto o non nuoto. Lui è il più grande olimpionico di tutti gli sport di tutti i tempi e continua a scrivere la storia. Io credo che potrà decidere solo lui quando smettere, perché sembra che l'età sinceramente conti veramente poco per lui, per quanto negli ultimi anni sicuramente il nuoto sta allungando la sua età. Lui comunque a 31 anni non solo va forte, ma va praticamente più forte di come è mai andato dopo aver anche smesso, quindi diciamo gli aggettivi non saprei come, che altri aggettivi trovare se non incredibile. Sì, perché non era scontato che questa Olimpiade fosse così dominante ancora nelle prove individuali. Non era per nulla scontato. No, non scontato. Era scontato per niente. No. L'anno scorso lui non fece ovviamente i mondiali di Kazan, però subito dopo i mondiali di Kazan lui nuotò ai campionati statunitensi, tempi con i quali avrebbe vinto le sue gare, praticamente 100-200 delfino, 200 misti. Quindi sicuramente si sapeva che lui, se tornava con un obiettivo che era solo ed unicamente vincere, però sai, di lì a farlo comunque c'è una bella differenza. Eppure comunque alla fine ha dimostrato che chi non ci credeva si sbagliava. Sì, sta riscrivendo anche alcune leggi della fisica. Che sensazioni hai per Paltrinieri? Paltrinieri è un campione, quindi negli ultimi anni ha dimostrato di essere una certezza, e quindi io penso che sinceramente ci sono pochi dubbi sul fatto che lui arrivi nella migliore delle condizioni, quindi non credo, lo dimostra anche il suo compagno di allenamento Gabriele Detti, che comunque è arrivato in ottima forma, si allenano insieme, quindi io penso che sinceramente se è in forma uno sarà in forma anche l'altro, oltre al fatto che, come ho detto, non ha mai praticamente sbagliato Greg nelle ultime stagioni quando contava, quindi le sensazioni sono sicuramente ottime. Poi l'incertezza sinceramente sta nel cinese, in Sun Yang, e basta. Per il resto Greg ci farà sicuramente sognare. Grazie Fabio. Grazie a voi, ciao. Grazie Fabio Scozzoli, abbiamo un minutino, sì, ce la facciamo. Francesco. Sì, ciao, grazie. Dai. Io volevo solamente dire una cosa al volo su Svazzer. Secondo me l'isolamento che ha subito quel ragazzo da parte delle istituzioni sportive italiane, parlo istituzioni sportive, non politiche, perché quelli non contano nulla, è gentaglia. Le istituzioni sportive lo hanno completamente abbandonato e si è persa un'occasione per trasformare un esempio negativo in un esempio positivo per tanti ragazzi che avrebbero potuto capire, affacciandosi allo sport, che chi ha sbagliato può poi recuperare. E per questo non mi piace Tamberi, non mi piacciono tutti quelli che criticano a priori. Non si dà più l'ergastolo alla gente che uccide e vogliamo rovinare per forza una persona che voleva dimostrare prima di tutto a se stesso, secondo me, che si può vincere un'Olimpiade senza doparsi. Sì, io Francesco, personalmente sono concordo, secondo me non esiste l'essere fuori alla prima occasione, però bisogna anche dire che è un'opinione che è legittima, che si può discutere ma che è assolutamente legittima, e quindi è anche legittimo che chi la pensa così poi lo esprima. Grazie Francesco, noi ci fermiamo qui, appuntamento domenica a partire dalle 17 con tutti i convocati weekend, nei quali ovviamente parleremo molto anche di Olimpiadi, torno a Leo Turrini, torno a Carlo Genta. Io ringrazio Claudia Schiattone, autore di questa puntata, Leonardo Sirigato, Lorenzo Rotella in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domenica. 35 gradi oggi, ma i leoni non mollano, ragazzi. Eccoli lì. Convocati. Ci vediamo domani. Enjoy.